Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Verso il picco dell'ondata di calore, l'allerta riguarda anziani e lavoratori, in particolare quelli dell'edilizia, la prevenzione nel contratto integrativo di Confindustria Alto Adriatico. A Gorizia è rivenuta una bomba d'aereo a ridosso del confine, alla Transalpina, piano congiunto tra Slovenia e Italia per rimuovere l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Detenzione, uso e spaccio di hashish. A Trieste denunciati 6 minorenni scoperti all'interno di un parcheggio coperto. L'importanza di una rete capillare di defibrillatori in ogni comune per impedire una morte ogni 1000 abitanti per improvviso arresto cardiocircolatorio. Lo Stato in regione. Porto di Trieste sempre più al femminile. L'Agenzia del Lavoro Portuale assume le prime 4 donne con ruolo operativo. Il PD ribadisce il suo no al progetto dell'acciaieria in Aussacorno e va all'attacco dell'esecutivo regionale. Inadeguato l'approccio della giunta Fedriga sul futuro sviluppo economico e industriale del territorio friulano. Torna Nano Valbruna, il Festival Green che dal 27 luglio riunirà nella piccola comunità professionisti e giovani da tutto il mondo per parlare della tutela dell'ambiente. Ancora una buona giornata da Livia Liberatore ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Anche Trieste, tra le 20 città italiane caratterizzate oggi dal bollino rosso per l'ondata di calore. Si tratta di un'allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili, ma tutta la popolazione. Un'allerta che si ripercuote soprattutto per alcune categorie di lavoratori. Nel nostro paese, 2 morti in pochi giorni per il caldo soffocante. A Firenze, un operaio 60enne addetto di un'impresa di pulizie, a Lodi un altro operaio stroncato dal caldo mentre lavorava alla segnaletica stradale. Entrambi le morti per sospetta ipertermia. In questi casi la prevenzione è fondamentale. Per le ondate di calore c'è una parte specifica nel contratto integrativo dell'edilizia, contratto integrativo di Confindustria Alto Adriatico, ANCE Alto Adriatico, quindi parliamo di Pordenone, Gorizia e Trieste, in cui si parla appunto proprio delle ondate di calore. Sono previsti 4 punti, cioè la distribuzione gratuita di bottiglie d'acqua, la messa a disposizione di integratori e lavoratori, la programmazione di pause aggiuntive, la sospensione dell'attività lavorativa con cassa integrazione per eventi meteo. Ci sono già delle casse integrazioni che sono state richieste dalle aziende più esposte, in particolare quelle che lavorano in strada. Per avere un quadro della situazione bisognerà solo aspettare il termine dell'ondata per capire quanto effettivamente siano state utilizzate. A firmare per l'ANCE Alto Adriatico questo contratto è stato il presidente dell'associazione Elvis Santina, a cui chiediamo le ragioni di questa parte, diciamo, possiamo considerarla innovativa rispetto a un tradizionale contratto collettivo. Sì, è una parte aggiuntiva, si tratta di condizioni che buona parte delle aziende già mettevano in atto. Il fatto di inserirlo nel contratto integrativo fa sì che diventi in sostanza una norma che vada bene per tutti. Riuscire a prevedere, grazie alle contrattazioni ARPA, FVG e delle ondate in anticipo, riusciamo a, come in questo caso, fare richiesta di cassa integrazione qualora poi effettivamente le ondate si manifestino. Lavorare con temperature molto alte, che sia in strada o soprattutto in elevazione, pensiamo alle coperture, ai tetti, diventa effettivamente pericoloso, sebbene si mettano in atto tutti i dispositivi di sicurezza, ma insomma un minimo di responsabilità e di sensibilità per il lavoratore ci vuole. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Ovaro da ieri sera si cerca un 84enne che è uscito di casa nel pomeriggio per cercare funghi e non ha fatto rientro. Impegnati 15 tecnici del soccorso alpino con la stazione di Forni a Voltri a coordinare le unità cinofile della protezione civile, i soccorritori della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Si perlustra la sinistra orografica della Val Degano, in particolare i boschi sopra Lenzone, zona abituale per lo scomparso, da lui conosciuta molto bene. Si sono utilizzati anche i droni con le termocamere dei vigili del fuoco. L'uomo non aveva portato con sé il cellulare. Oggi si stanno nuovamente ripassando tutte le zone perlustrate durante la notte. Per il momento non viene attivato l'elicottero, dato che si tratta di una zona boschiva. Si è da poco conclusa nella sede del comune di Nova Gorica la prima riunione operativa tra le autorità slovene e italiane che coordineranno le operazioni di brillamento della bomba rinvenuta vicino alla stazione transalpina. L'ordigno è di fabbricazione inglese, pesa 250 kg e risale alla seconda guerra mondiale. È stato rinvenuto durante uno scavo sulle condutture dell'acqua a pochi metri di distanza dai binari e molto vicino all'ex confine tra Slovenia e Italia. La protezione civile slovena ha previsto una zona di evacuazione di 400 metri dal punto di rinvenimento, mentre dai 400 ai 600 metri le persone dovranno rimanere in casa. La data ipotizzata per la neutralizzazione della bomba è la prossima domenica, 23 luglio, tra le 10 e le 13, ma per l'ok definitivo si attende la riunione prevista alla prefettura di Gorizia per questo pomeriggio. Gli artificieri sloveni hanno spiegato che è previsto uno scavo di 3 metri di profondità in cui verrà posizionata la bomba. Poi tre opzioni di neutralizzazione. La prima è la rimozione delle due spolette. Nel caso questa operazione fallisse, si tenterà di aprire l'involucro metallico con il laser e togliere l'esplosivo nel caso anche questa possibilità non avesse esito. L'ultima razio è il brillamento. Una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non esclusivamente personale e una segnalazione al prefetto per detenzione di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale. È il risultato dei controlli della polizia locale di Trieste intervenuti su segnalazione di un cittadino nei confronti di 6 ragazzi minorenni che si trovavano lo scorso mercoledì sera nel parcheggio coperto di un supermercato in Largo Barriera. 2 di essi apparivano irrequieti e a un primo invito hanno consegnato spontaneamente alcune dosi di hashish. È seguita una nuova ispezione dalla quale è stato rinvenuto un panetto da 70 grammi di hashish nel marsupio di uno dei 2 ragazzi. Accompagnati nella caserma di via Rivoltella per la perquisizione sono stati trovati in possesso di un bilancino di precisione e di una somma di denaro posta sotto sequestro per accertarne la provenienza. La scorsa settimana la polizia di Trieste e gli ispettori della SUGI hanno disposto con effetto immediato la chiusura del ristorante indiano Handi a seguito delle accertate condizioni igienico-sanitarie insufficienti, tali da mettere a rischio la sicurezza alimentare e la salute dei clienti e a causa della non conformità alle normative alimentari. Vediamo il tempo, cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso sulla regione, più variabile sui monti. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 32 gradi, con mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 32 gradi e mezzo, a Udine 31, a Pordenone 32, a Tolmezzo 28 gradi, Forni di Sopra 25 gradi, Piancavallo 23, a Tarvisio 24, a Sappada 23, sul Monte Zon Concolan 19 gradi, sul Monte Lussari 17 gradi, a Lignano 32 gradi con temperatura del mare di 28 gradi, a Lignano 33 gradi con temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi pomeriggio cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza, sarà molto caldo e molto afoso. Sui monti dal tardo pomeriggio possibile qualche temporale che localmente potrebbe essere forte. Non si esclude che dei temporali possano estendersi in serata alla pianura e alla costa e in caso di sviluppo saranno con buona probabilità temporali forti. Domani giornata instabile con fasi contraddistinte da schiarite anche ampie, più probabili nelle ore centrali, alternate a passaggi di temporali su diverse zone. Temporali che potrebbero essere più probabili nella notte e poi nel pomeriggio sera e localmente potrebbero essere forti. Nelle ore centrali sarà ancora caldo e con afa, specie in pianura. Un fatto di cronaca accaduto a Trieste, in cui un arresto cardiaco è stato inizialmente trattato da un passante, ci spinge a fare il punto sull'importanza della diffusione dei defibrillatori sul territorio. Un uomo di 66 anni si sente male a bordo del bus. Siamo in Largo Barriera a Trieste, sono le 6 del mattino, un passeggero subito si attiva e accede al primo defibrillatore disponibile che si trova fuori da una farmacia. Il negozio è chiuso ma la macchina è a disposizione all'esterno. Apre il contenitore, lo estrae e lo porta sul posto dove l'uomo si trova in arresto cardiaco, effettua le manovre di soccorso aiutato al telefono dal 118. Nel frattempo arrivano i soccorsi. Raccontiamo questa vicenda accaduta una decina di giorni fa perché è un esempio esempio concreto di come la catena della sopravvivenza può funzionare in modo corretto se in primis a rendersi disponibili sono i cittadini tutti, come ci racconta il responsabile del 118 di Trieste, Alberto Peratoner. Perché questo è un esempio concreto e positivo della catena della sopravvivenza, come può lavorare nel migliore dei modi? Perché il primo anello della catena della sopravvivenza, il cittadino, il laico, l'astante, quello che assiste ad un evento così drammatico, ha agito prontamente, in maniera efficace, chiamando la centrale, il 118, e attivando il defibrillatore, utilizzando questo mezzo essenziale per certi tipi di arresto cardiaco. Non è così comune che ci si prenda una responsabilità simile, però di fatto la macchina ti dice cosa fare, non è difficile. Sì, non è comune perché molte volte c'è la paura di fare danni che non se ne fanno assolutamente, c'è la non conoscenza, c'è il timore. Però questo è efficace comunque perché c'è sempre la centrale operativa che ti guida in tutte le manovre, sia del massaggio cardiaco che dell'utilizzo di questo presidio. Durante la manovra stessa di fatto si può parlare con gli operatori? Assolutamente sì, viene mantenuta la linea aperta, l'operatore chiede di mettere in viva voce il cellulare e guida tutti gli step fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono ancora poche le donne occupate tra banchine, container, gru e a bordo nave, eppure sono professioni ricche di opportunità. In Italia solo l'8% della forza lavoro è impiegata nelle imprese portuali è donna, ma il porto di Trieste è in controtendenza. Monica, Erika, Sara e Dislaidis. Sono loro le prime quattro donne che lavoreranno nel porto di Trieste. Tutte tranne una, under 30, saranno per un primo periodo assunte da una società di lavoro interinale, come già avviene per altri impiegati dell'Agenzia del Lavoro Portuale di Trieste, che si occupa di fornire personale al porto nei momenti di picco. Da domani inizierà la loro formazione, innanzitutto nell'uso delle ralle, i trattori portuali, per poi passare, nel giro di qualche mese, ad altre mansioni come l'uso dei carrelli o il check nave, cioè il controllo del corretto collocamento dei container sulle navi. Grande l'emozione delle ragazze per questa opportunità trovata grazie a un annuncio sui social, a cui erano state in una ventina a rispondere. Siamo le prime, dicono, ma vogliamo essere solo le battistrada, ci metteremo tutto l'impegno possibile per riuscire e far fare bella figura al porto. Visti anche gli esempi di altri porti, come quello di Livorno, dove un quarto del personale è femminile, questa era un'idea a cui pensavamo da tempo, ha detto il presidente dell'Agenzia del Lavoro Portuale, Francesco Mariani. Risolte le difficoltà logistiche come quella degli spogliatoi, abbiamo fatto delle assemblee con tutti i lavoratori dell'agenzia che sono stati favorevolissimi. Per il presidente dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone, Zeno D'Agostino, la professionalità e la competenza non hanno genere. L'assunzione delle prime donne è un messaggio importante nel processo di evoluzione di un porto sempre più inclusivo. Quanto invece alla situazione più generale dei due porti regionali in questa prima parte del 2023, D'Agostino ha spiegato che la congiuntura internazionale e gli effetti della guerra in Ucraina hanno avuto un grande impatto sul traffico commerciale, ma che in una situazione difficile Trieste va meglio del resto d'Italia, grazie anche all'ottima performance dello scalo di Monfalcone negli ultimi mesi. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Concessionari autostradali, firmato il nuovo contratto nazionale in Friuli Venezia Giulia, coinvolti 1000 lavoratori. L'incremento delle retribuzioni sarà di 250 euro mensili a regime, a luglio 1000 euro di una tantum. Il nuovo contratto, che riguarda il triennio compreso tra il 1 luglio 2022 e il 30 giugno 2025, prevede un aumento complessivo di 210 euro dei minimi tabellari, calcolato a livello C. I primi 60 euro decorrono dal prossimo 1 agosto, altri 50 dal 1 gennaio 2024, 30 ad agosto 2024 e l'ultima tranche di 70 euro da gennaio 2025. All'aumento della paga base si sommeranno a partire da gennaio 2024 10 euro mensili di incremento dell'indennità IDR e 30 euro sempre mensili di welfare contrattuale, portando a 250 euro il valore complessivo degli aumenti retributivi nel triennio. Oltre alle novità sulla parte economica, sottolinea la CGIL, il contratto introduce diverse migliorie in materia di congedi per maternità e paternità, part-time, turni, disciplina del comparto per le gravi malattie. Altro aspetto da sottolineare è l'assenza di penalizzazioni per i nuovi assunti nel settore. Il PD ribadisce il suo no al progetto dell'impianto siderurgico in Aossacorno e va all'attacco dell'esecutivo regionale. Definito inadeguato l'approccio della giunta Fedriga sul futuro sviluppo economico industriale del territorio friulano. No al progetto di acciaieria a Punta Sud, sull'Aossacorno. Sì a un piano di potenziamento e tutela della laguna, ma sì anche a politiche industriali vere, considerato il progetto di impianto siderurgico una foglia di fico per celare l'assenza di strategia sui consorzi industriali in regione. Il gruppo consigliere regionale del PD attacca la giunta proponendo un documento programmatico in 6 punti per garantire uno sviluppo economico dell'area, ma rispettoso della sostenibilità ambientale. In una conferenza stampa convocata a Udine, i consiglieri Pozzo e Martinez pongono a Federica e all'assessore Bini una domanda politica chiara. Atti, generalità e delibere del 2022 prefiguravano un semaforo verde totale al progetto Metinvest Danieli. Adesso che posizione ha la regione? Sì o no? Non ci si può più celare, affermano, dietro l'attesa di studi tecnici commissionati alle università. Il documento presentato chiede processi partecipativi e decisionali trasparenti, ma anche il rilancio di una progettualità nuova per l'area, sviluppando una strategia logistica e industriale sostenibile con investimenti proposti di 200 milioni su base decennale, 20 milioni all'anno. Presente all'incontro anche un rappresentante dei comitati della Bassa Friulana, i primi, è stato ricordato, ad aver portato in assemblee pubbliche sul territorio esperti e a far scoppiare il caso. Da ultimo l'appello al Comune di Udine, azionista di maggioranza del COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, per esprimere una posizione in merito, anche in virtù del futuro rinnovo della governance. Nessun commento da parte dell'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Midobini, che, indica, ha già relazionato in aula sull'argomento. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diverse segnalazioni sono arrivate alla regione da parte di cittadini che dallo scorso venerdì hanno notato un intorbidimento delle acque del fiume Isonzo. L'ARPA regionale ha iniziato un'indagine per capire le cause del problema. Stiamo monitorando la situazione, ha informato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Scocci Marro. Dalle prime analisi sembra che la causa non vada ricercata nello sversamento da un cementificio. L'ipotesi più probabile rimane quella dello svaso di un bacino sul versante sloveno. Sopralluoghi sono stati effettuati nei pressi di Gorizia, in particolare sul ponte del Torrione a Piuma, per prelevare campioni che verranno analizzati nelle prossime ore. Abbiamo interpellato la direttrice generale dell'ARPA, Anna Luttmann. Nel passato queste situazioni qua si sono verificate durante forti temporali oppure durante attività della diga del Salcano, però in questo momento noi stiamo facendo le dovute verifiche. Quindi non siamo ancora in grado di dare certezza all'esito delle indagini, perché appunto le indagini sono in corso. Abbiamo campionato, per cui stiamo aspettando dal laboratorio l'esito delle analisi che ci daranno alcune indicazioni e stiamo facendo tutte le dovute verifiche sul territorio ovviamente. Agricoltori della regione preoccupati per la diffusione della peste suina africana in 8 regioni italiane, dove sono in totale 1.001 i casi accertati nei cinghiali. In Friuli Venezia Giulia non ci sono casi, ma il virus dalla Liguria e dal Piemonte a gennaio del 2022 si è spostato in Lazio, Campania, in Basilicata e in Calabria, di recente anche in Lombardia. Confagricoltura regionale chiede agli amministratori pubblici di alzare il livello di guardia a tutela di un comparto, la suinicoltura, che partecipa per l'8,5% al PIL agricolo regionale e vale circa 70 milioni di euro. A Nuoro, Reggio Calabria e Roma, dopo centinaia di cinghiali, la peste suina ha già contagiato anche alcuni suini, evidenzia David Pontello, responsabile della sezione zootecnia di Confagricoltura. Sono state messe in campo una serie di misure di contrasto che, evidentemente, dice, non stanno funzionando in maniera efficace. Una 70 di studenti dell'Università di Udine hanno partecipato a un laboratorio all'aria aperta nel prato stabile dell'azienda agraria universitaria Antonio Servadei a Santo Svaldo. Il laboratorio, che ha interessato gli alunni del percorso in salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità del corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura, ha permesso di identificare oltre 100 specie vegetali diverse, tra cui alcune di notevole pregio perché legate ad ambienti poco disturbati e una 50 di specie di insetti in un'area di appena 5.000 metri quadrati. All'università è stato attivato anche un gruppo di ricerca per svolgere ricerche sul tema della biodiversità, approfittando delle peculiarità del territorio friulano che ospita una fauna e una flora molto ricche. Si intitola Eclettiche emozioni, la stagione 2023-2024 del Teatro Miela, presentata poco fa nel Teatro di Trieste gestito dalla cooperativa Bonaventura. La nuova stagione, per la quale a settembre sarà avviata per la prima volta anche la campagna abbonamenti, si compone di una rassegna per così rassegne per così dire storiche come Spaesati, Pecod o ancora il Pupkin Cabaret. Ma ci saranno anche nuovi spunti culturali, come ci spiega il direttore artistico Massimo Navone. La nostra stagione è pensata per aree di tematiche, aree di interesse, all'interno del quale ogni spettatore potrà creare il proprio percorso per costruire la propria eclitticità all'interno della stagione. Abbiamo alcune rassegne che in un certo senso conosciamo già, come Pecot, poi ci sono gli Spaesati, che cosa c'è ancora? Ci sono le rassegne storiche che ritornano e si confermano e poi abbiamo quella dell'anno scorso che è Protagoniste, una rassegna dedicata alla creatività al femminile, attrici e autrici che si mettono in scena e quest'anno abbiamo 12 titoli, attrici veramente di livello altissimo, tra le migliori sul panorama, e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di controbilanciare quella tendenza che le statistiche continuano a sottolineare, che c'è poca presenza femminile sui palcoscenici italiani. Noi cerchiamo di invertire nel nostro piccolo questa tendenza. Il cabaret, che è anche di casa al Teatro Miela, ci sarà? Ci sarà, come sempre, il Pupkin in una versione aggiornata e rivisitata. Ci sarà una speciale programmazione di Teatro per Tutti che vedrà le esperienze fortissime di clownerie, teatro di nuovo circo, teatro fisico, tra cui spicca Paolo Nani, che viene con la lettera per la prima volta a Trieste e lui è un maestro indiscusso del genere del teatro fisico, senza parole, cioè il teatro che va oltre ogni barriera linguistica. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Scienziati, divulgatori, artisti, giornalisti e imprenditori da tutto il mondo si incontrano dal 27 luglio al 1 agosto a Valbruna per un festival green nato dai giovani per i giovani. A fine giugno Nano Valbruna è stato presentato all'ONU, che invierà una delegazione al festival per un meeting internazionale. Stamattina a Udine la presentazione del programma. Cibo e agricoltura sostenibile è il tema dell'edizione 2023 di Nano Valbruna, il Festival Green del Friuli Venezia Giulia, in programma a Valbruna, nel Tarvisiano, dal 27 luglio al 1 agosto. Un festival nato dai giovani per i giovani, che anche quest'anno porterà nel cuore delle Alpi Giulie scienziati, imprenditori, artisti, divulgatori, professionisti, giornalisti e soprattutto giovani da tutto il mondo per parlare di futuro al presente. Una manifestazione di respiro internazionale che a fine giugno è stata presentata all'ONU a New York, proprio dai giovani di Regeneration Hub Friuli, l'associazione che organizza il festival, sostenuto anche dalla Regione e dalla Fondazione Friuli. Un prestigioso invito arrivato dal dottor Ayman El Tarabishi, presidente e CEO dell'International Council for Small Business, che è stato relatore in un workshop della scorsa edizione. Stefano Cercelletta e Francesca Milocco di Regeneration Hub Friuli hanno raccontato storia e obiettivi del festival con i vincitori della scorsa edizione del contest e il filmmaker Filippo Savoia. Una delegazione ONU sarà poi a Valbruna per un meeting internazionale. Tante le attività previste anche quest'anno, tra workshop formativi e appuntamenti con aziende innovative, incontri one-to-one e meeting with, con scienziati, imprenditori, ricercatori, manager e studenti. Tornano anche le Green Experience, escursioni nel segno del turismo sostenibile e gli appuntamenti per i giovanissimi con Nanno Picciule. Spicca nel programma il contest Byte, che premia le start-up sostenibili più innovative, un concorso di idee rivolto a giovani ricercatori, studenti e aspiranti imprenditori. Ai vincitori andrà un premio di 5.000 euro da investire nel progetto presentato. Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora occupiamoci del benessere dei nostri amici animali. In Friuli Venezia Giulia manca ancora una legge che vieti di legare il proprio cane a una catena, divieto che invece è in vigore in altre regioni italiane, ma ci sono associazioni animaliste che si stanno muovendo in tal senso. In Italia finora ha raggiunto quasi 40.000 firme la campagna promossa dallo slogan Liberi dalle catene per ottenere un'ordinanza che vieti la detenzione dei cani a catena. una pratica già illegale in diverse regioni, dalla Lombardia al Veneto, dalla provincia autonoma di Trento al Lazio, a fronte di un'iniziativa lanciata per evitare la morte degli animali esposti a ondate di caldo come l'attuale e all'impossibilità di fuga in caso di eventi come gli incendi, che quando scoppiano nelle abitazioni ogni anno causano moltissimi decessi tra i quattro zampe. Diverse le regioni in cui ancora manca una normativa in tema, tra cui la provincia di Bolzano, oltre a Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e Calabria, Sicilia e Sardegna. Diverso il discorso per il Friuli Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dalla legge 20 del 2012 per il benessere animale, che vieta l'uso di una catena fissa. È prevista una catena aerea con dei cavi lunghi, con dei moschettoni, insomma, con tutto ciò che permette al cane di muoversi e di arrivare ad un riparo, al cibo e all'acqua. La norma impone poi un massimo di 8 ore di detenzione alla catena, oltre le quali l'animale va liberato. I promotori della campagna, cioè le associazioni romane Cave Canem e Green Impact Italia e la barese Animal Law Italia, si sono posti il 2026 come termine per il raggiungimento dell'obiettivo. Ormai è matura la modifica della legge regionale e quindi noi lo chiederemo insieme ad altre associazioni sicuramente alla nuova giunta regionale. Speriamo assolutamente a breve di fare la richiesta e di ottenere una risposta dalle istituzioni in tempi brevi. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, nuovo ingaggio per la Triestina. Si tratta del centrocampista Lamin Fofana. Il 24enne ivoriano si è legato alla squadra alabardata con un accordo di durata biennale. Giocatore duttile e impiegabile in tutti i ruoli del centrocampo, Fofana ha maturato esperienze importanti in categoria con Fermana, Carpi e Messina, squadra quest'ultima in cui ha militato nelle ultime 2 stagioni, diventandone anche capitano. Per il basket, Ariel Filloi è il nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste, l'argentino che nel suo palmarès vanta uno scudetto, una Coppa Italia, una Euro Challenge e una promozione in Serie A, arriva a Trieste dopo aver disputato le ultime 2 stagioni ai massimi livelli con il Dertona Basket. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Viola Romanese e Paolo Cassano. Da Livia Liberatore e da Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.